però c'è tutto, tranne quello che diceva Carlo, bande laterali, eccetera, che comunque non potresti usare teoricamente in banda cittadina. Per quanto riguarda il resto, dipende, è per stazione fissa oppure stazione mobile, tante cose, però inizi e poi se ti appassioni lo trovi tu. Il 3009 è bellissimo, è un bel apparecchio, sì, sicuramente da usare, ti dà un sacco di soddisfazione. Ciao, alla prossima. Io vi ringrazio tutte e tre, ragazzi, vi contatto appena riesco di nuovo perché faccio questo cambio, poi vi contatterò e vi chiedo delle informazioni che però sarebbe il caso magari chiedervi eventualmente o con un caffè o eventualmente con un cellulare, non qua per radio, visto che comunque è una cosa che, su cui siamo un po' ascoltati tutti, proprio sulla radio, un'informazione sulla radio. Mi serve una cosa e devo capirlo. Vi saluto tutte e tre, chiudo e buona serata, vi lascio tranquilli. Grazie ragazzi. Mi sono dimenticato di dirti, Tony, che il 3009 almeno è completo di canali alti e bassi, comunque lo puoi, cioè una volta tu lo compri a 40 canali, basta spostare un jump che è all'interno dell'apparecchio ed è completo di Roger Beep, bande laterali, canali come ti ho detto prima, sotto e sopra, non lo so, poi vedi tu. Comunque è ottimo, va bene, alla prossima, quando vuoi entrare noi siamo qua, avanti, riprendi Carlo. Sì, ciao Tony, poi quando vuoi chiamaci, non ci sono problemi quando ci senti in radio, se vuoi entrare entra pure. No, adesso mi ha fatto sorgere un dubbio, io la mia radio che ho acquistato è omologata in AM, in FM e in banda laterale, André. Esce con 4 watt in AM, 4 watt in FM e se vado in banda laterale, sempre sulle stesse frequenze Citizen Band, dovrebbe uscire con 13 watt, però è radio omologata, capito? Quindi le bande laterali penso siano consentite sempre nella frequenza Citizen Band. Mi confermi, Luca? Sì, le bande laterali sì, però i canali alti e i canali bassi no. Esatto, infatti questa nasce come radio omologata, questa che ho io, e si chiama Albrecht AE5890EU, ha le classiche impostazioni dei canali europei se vuoi, oppure con una semplice, insomma, proprio semplicissima modifica, va oltre, capito, le sue cose, però di suo nasce ed è omologata con il suo numero di omologazione ed è radio AM, FM ed SSD. Allora, se non mi ricordo male puoi trasmettere solo esclusivamente in USB e basta, l'SB non puoi trasmettere. Per poter accedere a certe bande cercate di capirmi. Ecco qui, io mi fermo qua, questo non può, altro non posso dire, devo accedere a delle bande particolari. Ma Andrea, scusa che mi ero allontanato un attimino e ho sentito la fine di quello che hai detto. No, non ero io, era Tony che ha fatto un passaggio adesso su accedere a alcune bande particolari, non ero io Carlo. Su certe bande cercate di capirmi che sono di servizi, diciamo di servizio per certe cose, cosa potevo riuscire a fare? Allora, sull'omologato senza licenza non puoi fare moltissimo, se non questi canali banda cittadina e con ridotta potenza. Non sono sicuro, sicuramente sulle bande laterali forse puoi trasmettere in SSB Carlo, però con potenza ridotta. Le bande laterali dovrebbero avere il doppio della potenza rispetto ad AM e FM, no? In teoria, almeno se prendi lineari, no? C'è sempre indicato che in banda laterale trasmettono il doppio della potenza che in AM e FM, però le altre bande teoricamente, anche se gli apparecchi si possono sbloccare, perdono l'omologazione e non sono più, tra virgolette, a norma, almeno in Italia. Sì, esatto. esatto, quello è così, cioè una volta che lo modifichi perde l'omologazione, certo, però se l'acquisti, come ho fatto io, è una radio omologata e c'è il numero di omologazione e nasce come AM/FM ed SSB e se ne può andare in USB ed LSB, capito? Però solo le bande Citizen Band, capito? Solo quelle là. Carlo, non so se mi hai sentito prima, mi sa che puoi trasmettere solo in USB, LSB non puoi trasmettere. No, ho trovato una risposta in un sito di Radio Amatori. Adesso la legalità sono 40 canali, bande chiaramente frequenze 27, modi di emissione AM, FM ed SSB. SSB dipende sempre dai watt di potenza. Aspetta, USB non SSB, USB. Qua mi dice SSB. Adesso non so che cosa vuol dire SSB. Aspetta, scusa, perdone un attimino, che mi sa che sto facendo. Cosa è successo qua? Per accendere possibile la luce della freccia, perché la luce. Cosa è successo qua? Ah, ecco, scusa. Vediamo un po'. No, qua c'è scritto USB. USB e LSB. La banda è praticamente SSB e si suddivide in USB ed LSB. SSB sta per single side band, capito? E ha le bande sopra e sotto le frequenze, quindi la radio nasce AM, FM ed SSB, quindi l'omologazione è per AM, FM ed SSB. Poi nell'SB sono comprese le USB e le LSB. È proprio così, però non so se tra le SSB puoi trasmettere sia nelle alte che nelle basse. Praticamente è una trasmissione senza portante, da quello che ho capito io. La trasmissione, ecco, mi sono tornato, la trasmissione che mi interessava era sentire, a me ascoltare chi vive in città e le forze dell'ordine. Ma questo non è consentito e non è in queste frequenze soprattutto. Teoricamente non lo puoi fare neanche se sei radioamatore, una cosa di questo tipo. Ok ragazzi, allora io vi ringrazio, comunque vi cercherò altre volte, quindi Luca, Carlo e Andrea, vi lascio alla vostra chiacchierata e chiudo, un abbraccio e vi saluto, chiudo. Ciao Tony, alla prossima. Ciao Tony, alla prossima, ciao, avanti Carlo. Tony, sì. Dovrebbe essere così comunque, perché stavo controllando anch'io e c'è scritto che le radio di nuova generazione comprendono nell'omologazione AM, FM e SSB, capito, banda laterale, però non devi superare i watt diciamo nativi della radio. La radio esce con 4 watt e poi non 12 ma se ne va 8-9 watt in SSB. Kappa, confermo anch'io, c'è una limitazione in banda laterale alla potenza in uscita, è così. No, però io pensavo che non fosse consentita la banda laterale, invece sono contento sul fatto che sia consentito, quindi mi devo cambiare la radio, ecco cosa ho scoperto stasera. Ma questa che ho io è favolosa perché diciamo è abbastanza intuitiva, facile, semplice da usare, e, diciamo ha un buon microfono, non è niente di eccezionale e non costa neanche tantissimo. Carlo, la tua, me lo ricordi? Ora, praticamente è della casa Midland, però il marchio è Albrecht, scritto proprio così, Albrecht, è tedesca, però diciamo ha il simbolo dell'Alan, perché praticamente il produttore è l'Alan CTE, capito? Ma esce con questo marchio qua, e si chiama Albrecht AE 5890. Midland è italiana, se non sbaglio, un brand italiano, vero? Sì, esatto, ma su internet trovi tutto, tanto, basta che metti su Google il motore di ricerca, poi te la fa vedere, puoi cambiare i colori del display, non ha il sistema ad aghi perché è una radio di nuova concezione, quindi è col display colorato e quindi c'è la striscetta che va avanti e non più le lancette come le radio diciamo tradizionali, però già va bene questa radio. Io ho fatto diversi collegamenti anche a lunga distanza quando c'è propagazione con questa radio, e ti posso dire che qualche piccola soddisfazione me la sono tolto. È bellissimo questo, è di fascia alta, qua la vedo intorno ai 300 rotti euro, 350 euro, diciamo di prima mano, bella. Adesso mi guardo un po' le caratteristiche. Io l'ho pagata la metà, però l'ho presa su quel sito HM Shop, HM Radio Shop, qualcosa del genere, l'avevo trovata là in offerta. Adesso l'ho trovata in un altro sito a 245, già sono invece di 100 euro, adesso la cerco perché la trovo a 25 euro, Carlo. Appunto, se continui a cercare la trovi anche per meno, la trovi per meno. Poi se ti servono notizie, già ce le possiamo scambiare, ti dico io come fare senza toccare niente, proprio non devi, serve solo un cavetto reset di quelli del computer che si procurano facilmente, e poi te la porto come vuoi, te la porto allo stadio iniziale, senza modificare niente. Figata, quindi è programmabile. Yes, bisogna farlo con attenzione, precisione, e il lavoro ti viene perfetto. Kappa, questo è molto interessante, adesso me la studio bene anche dagli altri punti di vista. Bella, modernissima. Beh, è una scelta un po' diversa da quella di Luca, che va sul classico, Luca, avanti. Guarda, a me dispiace dirlo, ma mi piace di più l'analogico. Sì. Digitale non mi garba, sono sincero, non mi garba. Io ho il Mobicom che sia analogico che digitale, però non mi dice niente, sono sincero, è bello però un apparecchio, è molto meglio di questo perché è più luminoso, ecco, prendo questo frequenzimetro arancione, in più c'ha lo smitter, è bello un apparecchio, però non mi dice niente, preferisco questo qua. Pure il Mobicom è una bella radio, perché io la conosco e come concepita proprio è bella, anche robusta, c'ha lo smitter con l'ago se non sbaglio, e c'ha sia il canale che la frequenza, mi confermi questo Luca? Sì, simile, sì, allora lo smitter e il digitale anche, però non mi gusta, infatti lo sto vendendo, se qualcuno lo vuole, ce l'ho, è nuovo, compreso di staffa, cavetto di alimentazione, 50 euro se lo porta via, io non lo uso, è lì, oddio, non è che mi servono soldi, però non lo sto usando e lo tengo lì, poi vabbè, non mi chiede né acqua né vino, se qualcuno che interessa, che lo vuole, glielo vendo. Se sento, sì, perché quella è una buona radio, Kappa si conferma. Cazzo, domani mi aggancio al Typhoon, che esce con più watt, e guarda, ti dico un'altra cosa, dà più watt anche l'ampli. Provando a vedere se la trovo, sì, praticamente adesso ce l'ho proprio davanti, Intec Mobicom MB40, radio CB veicolare, 200 canali, AM, FM, 15 watt, sì, ce l'ho qua, la conoscevo questa radio, forse ce l'aveva un mio amico, perché è un modello che c'è da tanti anni, se non sbaglio, Luca, vero? Qualche anno, sì, a qualche anno. Però a me piace il Tornado 4005, quello c'è il fratello di Andrea, trovare il Tornado Verginello sarà un po' difficilotto, magari. Kappa, quello anche quello lo conosco proprio tutto perché ci abbiamo modulato per anni con Sguccio, il suo, però ogni tanto glielo, il contrario di quello che facevi tu Luca. Buio nei confronti di Sguccio. Cioè il contrario? Ma a te te lo facevano toccare l'apparato quando eri piccolo, No. Ecco, anche Sguccio non me lo faceva toccare, io sono il fratello più grande, ma era suo, gli apparati erano suoi, e ogni tanto quando non c'era ci smanettavo. Va c'era me, se ne accorgeva perché toccava l'alimentatore bollente e mi prendeva a voci. E poi alla fine ho deciso e me lo sono messo per i fatti miei. E niente, tra una cosa e l'altra ci sono, non dico 30 anni, quasi, da quasi 30 anni. E tuo fratello invece sta continuando anche lui con CB? No, è già un giorno. Sai che manca più di 25 anni. No. Prima c'era il furgone, io le facevo consegne. E poi da stavamo messo la motocarro anche. E niente, poi mi ha staccato tutto, sono venduto. E tu ci aveva tornato a 4.500, bello. Poi l'aveva venduto a pochi soldi. Se l'aveva venduto in lire, 150.000 lire. L'aveva venduto a Lucio allora? No, l'aveva venduto a Domenico Tazza. Ho capito. Il giornale era tutto carino, bello esteticamente, aggressivo, pieno di pulsanti, lucine, smitter, bello. Io c'ho l'iPhone uguale. Non è che sia molto diverso, gli stessi canali, le bande laterali, Roger Beep disattivabile, cioè questo qua non lo posso disattivare per 3.900. Sì, sono molto simili, tra il dissipatore dietro, sono belli come appare, sono massicci, belli sì. E domani me lo attacco, mi uso quello. Sì, l'ho visto, il 3.900 è molto simile al 4.500, assolutamente. Avanti Carlo. Insomma, queste radio a volte ci prendono proprio la testa. Niente, io invece in macchina sto usando, Andre, uno di quelli piccolini, tipo quello tuo che mi hai detto, il PNI, no? E l'avevo pagato in offerta su Amazon, era di quelle offerte a tempo, no? Che scadono, 77 euro, comprese le spese di spedizione, ed è un President Bill, capito, piccolino, che ci sta nel palmo di una mano, cioè quello lo tengo in macchina. Ma c'è anche le bande laterali? No, negativo, non ha le bande laterali, ha un'uscita USB per la ricarica di cellulari e tablet, e carica molto bene perché l'ho provato in macchina, ci collego il cavetto, capito, e ho visto che il telefono me lo ricarica, e io il viaggio che faccio è Alghero-Sassari, quindi sono 20 minuti, 25 minuti, capito, però quei 25 minuti che lascio il telefono in carica, collegato alla radio, me lo carica tranquillamente, se lo metto al 50% arrivo ad Alghero ed è al 93%, quindi vuol dire che funziona bene anche l'uscita USB di ricarica. E anche quello con un taglio di ponticello e la ricostruzione di un altro ponticello piccolino, lo spostamento, slittamento da una parte all'altra di un piccolo altro ponte, si può arrivare a un 400 canali. Però lo sto guardando, è molto carino il display, c'è anche la frequenza, bello, e c'è anche il volume squelch concentrici, potenziometri, è molto simile al mio come dimensioni, però questo sicuramente ha più funzioni, io proprio base, anche il mio, se vedi, ha la stessa scheda del Midland, questo che sto usando io, con un ponticello e con due o tre cose, gli aumenti la potenza, i canali, le solite cose, però anch'io non lo apro perché tanto mi interessa fino a un certo punto. Sì, no, non conviene quello che uso in macchina, conviene lasciarlo liscio, così ho fatto così. Infatti il 747 che mi ha procurato Luca l'ho preso per la macchina e invece lo sto usando a casa, capito? Sì, piano, ma sono cose, sì, in macchina alla fine non conviene. E poi voglio dire, intanto stiamo parlando lo stesso, magari qualche VIX te lo fai quando c'è propagazione con 747, ma per la banda cittadina ce l'hai davanti. Beh signori, io a malincuore Mario, vi lascio perché sono sveglio stamattina, l'ho detto anche stamattina, oh no, stamattina ci siamo sentiti Carlo, sì. Sì, sì, stamattina intorno alle 9:30, intorno a quell'ora ci siamo sentiti, mi hai detto che ti sei svegliato alle 4:30. Infatti, stasera mi sono riposato ma poco, poi c'ho un mal di testa assurdo e niente, adesso tanto sicuramente mi fa da sonnifero il televisore, ho già messo l'autospegnimento e niente, mi dispiace, avrei continuato ma non, tanto poi mi addormento, preferisco salutarvi e niente, ma ci sentiamo domani sera non ci sono, né domani né sabato, rientro domenica a casa e, domani mattina magari io provo a chiedere se c'è qualcuno, tanto sono a casa, devo fare delle cosettine. E ciao, alla prossima, dai. Ciao Carlo, grazie delle due chiacchiere, ciao anche a te Andrea, alla prossima, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte Luca. Ciao Luca, buonanotte, e anch'io inizio a piegare i ferri che domani mi devo alzare presto, stesso per andare al lavoro. Niente, mi sembra che saluto anche te Carlo, allora insieme all'amico Luca e ci sentiamo alle prossimine. Domani entrate? Allora, io domani mattina sono a casa e sicuramente come mi alzo, che escono tutti gli altri per andare a scuola e a lavoro, accendo la radio e mentre mi prendo un caffè, se mi chiamano rispondo. E poi di sera non ci sono perché finisco di lavorare alle 21 domani sera. E sabato ho degli impegni e sono fuori Sassari tutto il giorno e lavoro col turno di notte, per cui solo domani mattina io mi sentirò in radio e poi direttamente a domenica. Capa, quindi ci sentiamo domani mattina, adesso vedo anche come sono messo, e se no ci sentiamo direttamente domenica, va bene. Ciao allora, buona giornata e buone prossime. Ciao Andrea, io rimango ancora un po' in ascolto qua perché sono in cucina col computer. Ciao Luca, se sei ancora in ascolto, se domani mattina mi fai chiamata già ti rispondo, così ci facciamo altre quattro chiacchiere senza nessun problema. Benissimo, grazie della chiacchierata, a risentirci alle prossimine, buonanotte a tutti. Buonanotte.